Mamma Tron. E buongiorno a tutti e tutte. Oggi Mamma Tron inizia con una sigla diversa, un po' più acustica. E per oggi parleremo di fotografia. Che cos'è la fotografia? Quali canzoni sono state dedicate a quest'arte? E quale sviluppo ha avuto negli anni? Quali sono state anche le massime e i massimi esponenti di fotografia? E appunto andiamo. O quelli che ci piacciono a noi. O quelli che comunque più di tutti hanno colpito la nostra attenzione. E per cominciare sentiremo una canzone dei Cure, che è un gruppo post-punk inglese nato nel 76, un gruppo anche che fa musica alternative rock, che tutti e tutte conosciamo, e sentiamo Picture of You, che fa parte dell'album Disintegration del 1989. L'ispirazione di questo brano è data all'incendio che si è scatenato in casa di Robert Smith, e il giorno dopo, tra i resti di questo incendio, Smith ritrova il suo portafoglio con le foto della moglie Mary. Infatti una di queste foto venne poi utilizzata come la copertina dell'album. Picture of You, The Cure. Ma che cos'è in realtà la fotografia? È un'immagine statica e permanente. Grazie alle proprietà fotosensibili di un oggetto riusciamo a ingabbiare un'immagine per sempre. E, diversi sono i campi in cui la fotografia è riuscita dalla sua invenzione fino ad oggi ad arrivare, e deriva da due parole che sono greche: luce e grafia. Il XX secolo la fotografia è stata utilizzata anche per dei reportage o documentari. Ad esempio ci può venire in mente i momenti di guerra in cui appunto proprio un documento vero e proprio era la fotografia. E quindi per questo oggi Mamma Drone ha deciso di dedicare questa puntata alla fotografia, e vediamo come tantissime canzoni le sono state dedicate. Ad esempio? Ad esempio sentiamo gli Smiths, che nell'album Strange Ways Here We Come hanno scritto Paint a Vulgar Picture, e quindi sentiamo The Smiths Paint a Vulgar Picture, che è una canzone nella quale gli Smiths appunto ci dicono che è possibile, diciamo, parla delle case discografiche e del fatto che si possa dire no alle case discografiche, che non c'è bisogno sempre di dire sì per avere successo. At the record company meeting, on their hands a dead star and all the plans they bring, and all the sickening dreams. At the record company party, on their hands a dead star, the sycophantic slags all say. E un ringraziamento particolare a la nostra amica Elenona, che ci ha aiutato a costruire questa puntata, che non è qua con noi ma che ringraziamo tantissimo. Questa te la dedichiamo tutta. The sound check, you had no real way of knowing. In my heart I beg, take me with you, I don't care where you're going. But to you I was faceless, I was fawning, I was boring, a child from those ugly new houses who could never begin. E come non parlare di Tina Modotti, emigrante, operaia, attrice, fotografa nel Messico degli anni 20, antifascista, militante nel Movimento Comunista Internazionale, perseguitata da Sulle Politica e garibaldina di Spagna. La Modotti nacque a Udine nel 1896 e muore a Città del Messico nel 1942. Proveniente da una famiglia di operai italiana, si trasferisce negli Stati Uniti nel 1913, dove lavora in una fabbrica tessile e fa la sarta. In questa diciamo vita americana inizia ad interessarsi all'arte, e nel 1920 comincia la sua carriera di attrice di film muti a Hollywood. Nel 22 si ritrova, diciamo, nel, anzi, scusate, alla fine del 23 va in Messico con Edward Weston, che è un grande fotografo americano di quegli anni, e appunto cominciano in questo, diciamo, in questo paese dove c'è un forte clima politico e post-rivoluzionario, a prendere contatto con i grandi pittori muralisti come Rivera e Orzoco, che appunto appartengono al sindacato degli artisti e sono i fondatori del giornale Il Machete, per cui Tina lavorerà. È grazie, diciamo, a questa esperienza che si avvicina alla fotografia e conquista un'autonomia espressiva. Nei primi anni decide diciamo di nel 26 decide di stabilirsi in Messico, e le prime foto sono proprio quelle della vita degli abitanti del Messico, e sono delle foto diciamo, inizia ad usare il mezzo fotografico come uno strumento di indagine e denuncia sociale. Tina avrà una vita molto, diciamo, intensa e travagliata, anche perché, diciamo, non... per la sua vita viene anche criticata dallo stesso partito comunista messicano di cui fa parte, e quindi si ritroverà poi nel 1930, dopo essere stata accusata ingiustamente di aver partecipato a un attentato contro il nuovo capo di Stato messicano, viene espulsa dal paese e andrà a vivere in Europa, prima a Rotterdam, poi a Berlino, in Cecoslovacchia, fino a poi ritrovarsi in Messico accanto di Vittorio Vitali, che si presume sia stato l'assassino di Trotsky. Abbiamo varie teorie. Fino al 35, quindi, vive fra Mosca, Varsavia, Vienna, Madrid e Parigi, e fa un'attività di soccorso ai perseguitati politici, fino poi ad arrivare in Spagna nel 36, quando scoppia la guerra civile, e appunto, diciamo, in questi anni lavora negli ospedali e nei collegamenti. E, in questi anni aiuterà i profughi ad avvicinarsi alla frontiera e fino a poi ritrovarsi a Parigi. Diciamo che in questi ultimi anni di vita la Modotti deciderà di abbandonare la fotografia per dedicarsi a tempo pieno alla militanza politica e antifascista, fino a che il 5 giugno del 42 ritorna in Messico dopo essere stata espulsa dalla Spagna, e dopo una cena a casa di amici morirà dentro un tassì. E a Tina Modotti dedichiamo la canzone di The Bird and the Bee, I Hate Camera. E come non nominare la poesia dedicata da Neruda a Tina Modotti, che si trova nella sua tomba a Città del Messico: sul gioiello del tuo corpo addormentato ancora protende la penna e l'anima insanguinata, come se tu potessi, sorella, risollevarti e sorridere sopra il fango. Oh, how the camera has misspoke. insomma, continuiamo con Mamma Trona e ricordiamo a chi ci ascolta che si possono commettere errori o comunque anche avere idee diverse, va bene. Comunque, continuiamo con un'altra artista, Francesca Woodman. Lei è nata a Denver nel 1958 ed è morta nel 1981, sempre negli Stati Uniti. Ha avuto una vita piuttosto breve, ma comunque un'artista fotografica influente e importante per tutto il XX secolo. Appare in molte delle sue fotografie e il suo lavoro si concentra soprattutto sul corpo e su ciò che la circonda. Riesce, è sempre riuscita a fondere insieme con abilità questi due aspetti. È cresciuta in una famiglia di artisti, il padre George era un pittore, mentre la madre Betty era una ceramista. Trascorre la sua vita anche a Firenze e quindi riesce ad avere varie influenze. Frequenterà l'Island School of Design e lì incontrerà anche altri artisti fotografi. Nel gennaio del 1981 pubblica la sua prima e unica collezione di fotografie, unica ovviamente di quando era viva, perché poi postume ce ne saranno altre. Il titolo di questa raccolta si chiama Alcune disordinate geometrie interiori. Nel corso diciamo dello stesso mese si suicida gettandosi da un palazzo a New York a soli 22 anni. Vi leggo una delle sue frasi più famose: ho dei parametri e la mia vita a questo punto è paragonabile ai sedimenti di una vecchia tazza da caffè e vorrei piuttosto morire giovane preservando ciò che si è fatto, anziché cancellare confusamente tutte queste cose delicate. E allora, da Francesca Woodman passiamo agli Who, che è una canzone del 1962, scrivono Picture of Lily. Picture of Lily è una canzone che da molti è stata interpretata come un omaggio alla masturbazione, perché appunto è racconto di questo ragazzo che non riusciva a dormire e con il Picture of Lily, appunto questo poster di Lily, invece dorme sonni più tranquilli. Questa è una delle interpretazioni, sicuramente ce ne saranno altre e forse, insomma, come tutte le ipotesi, possono essere reali o meno. Gli Who è un gruppo famosissimo degli anni 60-70 che oltre ad essere, diciamo, un gruppo musicale, ha creato anche uno stile che è quello modernist, famoso negli anni 60. Importante è l'album My Generation, che oltre a dare il titolo all'album è un vero e proprio manifesto per un'intera generazione. Famose sono anche le varie opere musicali, da Tommy, in cui partecipano artisti del calibro di Elton John, Quadrofenia, e alla fine c'è anche un film documentario postumo, insomma, dopo la fine della loro carriera, anche se adesso continuano a fare concerti, comunque all'attivo non ci sono nuovi dischi, e si chiama The Kids Are Alright. E andiamo ad ascoltare appunto Pictures of Lily. I used to wake up in the morning, I used to feel so bad, I got so sick of having sleepless nights, I went and told my dad. He said, son, now here's some little something that stuck them on my wall. And now my nights seem quite so lonely. In fact, I don't feel bad at all. I don't feel bad at all. Pictures of Lily made my life so wonderful. Pictures of Lily help me sleep. Pictures of Lily, Lily, oh Lily. Lily, oh Lily. Pictures of Lily. E adesso una piccola precisazione, perché non sempre, diciamo, la precisazione è per questo nostro ascoltatore che appunto non volevamo dire che Vidali è stato, diciamo, l'assassino di Trotsky, ma probabilmente fu coinvolto insieme a Grigulevic, il pittore messicano David Alfaro Siqueiros, che per chi non lo sapesse era anche il cognato di Vittorio De Sica. Comunque ci sono tanti misteri nella storia, lo sappiamo bene. Adesso invece passiamo a parlare di Blondie, che sono un gruppo punk rock statunitense, diciamo, che furono fondamentali nella scena punk e new wave della metà degli anni 70, e la loro canzone che andiamo ad ascoltare è Picture This, del 1978, e fa parte del settimo singolo dei Blondie. E adesso passiamo ai Depeche Mode, che sono un gruppo che spero che tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici conoscono, ed è un gruppo appunto musicale synth pop britannico che comincia, diciamo, la sua storia all'inizio degli anni 80, e nel loro primo album scrivono questa canzone che si chiama Photographic, che fa parte di una compilation dal titolo Some Bizarre, realizzata insieme a alcuni gruppi emergenti dell'epoca quali Soft Cell, i Blank Manage, The and Naked Eyes. E questo brano venne poi ripreso da numerosissime band satellite, e andiamoci a sentire i Depeche Mode con Photographic. Thank you. E adesso Mamma Trona vi farà ascoltare una cover. La canzone è di Tom Waits, si chiama Picture in a Frame. Però la sentiremo da un live dei Pearl Jam, un gruppo storico del grunge che, malgrado gli anni, una ventina d'anni che calca i palcoscenici, ancora continua a regalarci dei dischi e della musica live più che emozionante. E uno dei gruppi grunge che in realtà si è sempre esposta anche sul sociale e su quelle che sono le condizioni di vita e anche diciamo si è anche esposta rispetto al movimento no global, quindi negli anni anche insomma 90 e 2000, quindi anche adesso hanno avuto sempre una forte connotazione politica. Quella che andremo a sentire adesso appunto è la cover di Tom Waits, Picture in a Frame, e l'ascolteremo con una dedica iniziale che fa Eddie Vedder, che è il frontman di questo gruppo, e appunto se potete vederla su YouTube è veramente emozionante, ripreso da un video di un live di Milano del 2006, in cui inizia con una dedica, poi si siede e inizia appunto questa canzone che è una ballata, che diciamo è una delle caratteristiche di questo gruppo, che è anche molto rock, però riesce ad essere anche fortemente, lo possiamo dire, emozionante. Allora ascoltiamoci Picture in a Frame per Jam. Con tanto di dedica. Questa canzone la dedico all'amore della mia vita e la madre della mia bambina, Olivia. Che ho conosciuto nella bella Milano 6 anni fa. In tutto ciò Eddie Vedder dal vivo, quando parla, sembra il Papa. Since I put your picture in a frame, I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. I come calling in my Sunday best. Ever since I put your picture in a frame, I'm gonna love you till the wheels fall off. Oh yeah, I love you, baby, and I always will. I love you, baby. Ever since I put your picture in a frame, I love you, baby, and I always will. Ever since I put your picture in a frame, ever since I put your picture in a frame. E allora, sulle note dei Pearl Jam cambiamo completamente genere, sempre una canzone sulla fotografia, si chiama Foto di gruppo ed è di Bassi Maestro, che è appunto questo rapper italiano che nel 98 fa appunto questo CD in cui c'è la canzone appunto Foto di gruppo, è uno dei testi più profondi e intimi in cui si confronta con quello che è lo scorrere del tempo e dei diversi momenti dell'esistenza. Che poi ovviamente sono comuni a tutti, però qual è la cosa che rimane? La musica è proprio diciamo questo elemento che fa un po' la differenza rispetto agli anni che passano. Ve la faccio ascoltare così potete capire insomma quello che ho provato a spiegarvi. Bassi Maestro, Foto di gruppo. Troppo stanco per dormire, come Pellico mi metto a scrivere memorie su memorie per reprimere la voglia insoddisfabile di pormi dubbi irrisolvibili, circondato da un deserto di inquietudini, le conoscenze non le riconosco. E adesso ascolteremo i Placebo, che anche loro sono una band britannica di musica alternative rock, che però sono anche nati per aver portato avanti uno stile musicale molto variegato, che ha saputo spaziare dal Britpop al post-grunge, passando per il neo-glam, punk rock, e anche che ha provato diverse sperimentazioni elettroniche, soprattutto negli ultimi album. Dei Placebo ci ascoltiamo This Picture, che è una canzone che fa parte dell'album Sleeping with Ghost del 2003, in cui appunto si esprime la paura di invecchiare, e in cui esprimono anche, diciamo, le relazioni autodistruttive. Quindi andiamo con This Picture. Late at night, once on all fours, she used to watch me kiss the floor. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? Farewell, the ashtray girl, forbidden snowflake. Beware this troubled world. Watch out for earthquakes. Goodbye to open soil. E dopo i Placebo sentiremo la canzone dei King Crimson, che sono un gruppo progressive rock inglese nato nel 69, ancora attivo tutt'oggi. E la canzone che andiamo a sentire è Picture of a City, che è contenuta nel secondo disco del gruppo, In the Wake of Poseidon. E partiamo con i King of Crimson. Problemi Adesso invece passiamo a Van Morrison, un cantante nordirlandese che dagli anni 60 ha appunto prodotto canzoni di vario genere. Nel 64 ha iniziato la sua carriera con un gruppo, i Them. Poi negli anni 70 ha iniziato e continuato la sua carriera negli Stati Uniti. Negli anni 80 ha collaborato a vari progetti New Age, fino ad arrivare agli anni 90 in cui partecipa al progetto di Roger Waters, The Wall. Sicuramente molte sono le influenze di questo cantante nordirlandese, dal blues al jazz. E la canzone che andremo ad ascoltare oggi è proprio What's Wrong This Picture di Van Morrison, che fa parte dell'omonimo album What's Wrong This Picture. Picture. There's something in here. Yeah. What's wrong with this picture? Something's not exactly clear. What's wrong with this picture? Does it look like it's just another sting? Sting. Does it don't be the thing? If it ain't got that swing and ring a ding ding, what's wrong with this picture? E questo era proprio un assaggio, perché Mamma Trona sta avvolgendo quasi al termine e vi salutiamo, ringraziamo Elenona che ci ha aiutato nella creazione della puntata, salutiamo Piccona che ci fa compagnia e salutiamo anche Silvia, salutiamo tutti e tutte e con l'appuntamento del prossimo giovedì, come al solito dalle 12 alle 13 su Radio Onda Rossa. E concludiamo con la canzone Photograph, una canzone scritta da Ringo Starr e George Harrison e pubblicata come singolo nel 73. E che dire, che Ringo Starr forse è l'unico dei Beatles ancora vivi, perché probabilmente Paul McCartney non è Paul McCartney, e quindi concludiamo con Photograph. Fabi, ci sei? Sono Simone. Aspetta, ci sono. E adesso siamo in corrispondenza con il corteo sotto la regione. Pronto, ci senti? Pronto? No, abbiamo dei problemi. Allora, un secondo. Allora, rieccoci in diretta. Rieccoci in diretta. E ci senti? Eccomi, eccomi. Ci senti? Ah, finalmente. Abbiamo avuto un po' di problemi per rintracciarti. Allora, no, adesso diciamo che c'è un attimo di tensione. Sì, ok. Perché insomma qualcuno sta provando ad entrare dentro. Sì. Ricordiamo che ci sta ascoltando, che è in diretta. La casa internazionale, comunque c'è una delegazione che sta arrivando ad entrare e niente, l'hanno un po', c'è stata un po' una, hanno bloccato l'entrata per non farla entrare. Allora a questo punto insomma la piazza si è un po' arrabbiata per questa situazione, e poi ci sono ritirati, diciamo, i pazzi all'interno della regione, i pazzi che hanno portato qua davanti. Ora stanno uscendo gente un po' strana, ecco, dopo sta entrando la delegazione. Vabbè, quello che volevo dire però è che c'è stato un incontro dopo due ore di presidio sotto la regione con questo assessore forte, che è l'assessore alla sanità. E assolutamente un incontro inconcludente e assolutamente, diciamo, di presa in giro per le donne che stavano lì, cioè che stavamo lì, che stavamo parlando con lui, chiedendo delle citazioni sulla questione dei finanziamenti, ma siccome delle legge Tarsia, ora stiamo facendo la delegazione e mo io provo a entrare, vediamo un po' se mi fanno entrare. E niente, vabbè, vi farò sapere perché stanno attimo provando a entrare. Va okay. Bene, quindi sicuramente ci sentiremo dopo, intanto ti ringraziamo. Ciao. Scusate. opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. Taste me, drink my soul, show me all the things that I shouldn't know. When there's a blue moon on the rise, I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Make me wanna die. E allora, sempre sotto la regione? Sì. Allora, dici un po' come sta andando, com'è andata la giornata? Allora, scusate per prima, però, insomma, c'è stato un momento un attimo... Certo, di... stavamo capendo cosa fare. Dopodiché, sì. Vabbè, velocemente, la questione è questa, che siamo andati sotto la regione richiedendo questo incontro, almeno con la Polverini, l'obiettivo chiaramente era la Polverini... Chiaramente non è al lavoro, non è alla regione oggi, come si poteva dimostrare, come si poteva già pensare, e quindi niente, ci hanno dato, ha detto sì, che ci ricevevano una delegazione, poi ci hanno detto di no, quindi siamo rimasti un po' così nel capire che cosa fare, e niente, a un certo punto è arrivato questo storto, mi sembra che si chiami, comunque l'assessore alla salute della regione, che è sceso dicendoci che ci avrebbe incontrato, sta di fatto che quello che ha fatto è stato solo, diciamo, un po' un comizio, no? Dicendo che alla fine la legge Tarsi era una legge, cioè una proposta di legge che mai come questa erano state ascoltate, su cui erano state ascoltate audizioni su audizioni, quindi ha sottolineato veramente il profilo democratico che c'è stato rispetto a questa legge nelle commissioni, eccetera. Noi abbiamo detto chiaramente che poco ci interessa che ci siano state tante audizioni, quello che ci interessava era avere, diciamo, un incontro diretto, no? Tra i movimenti e le amministrazioni, cioè la Polverini stessa, perché volevamo consegnare queste firme per dire, insomma, che evidentemente la cittadinanza, le donne di questa regione non sono d'accordo con questa legge, al di là dell'audizione. E lui ha detto che assolutamente già c'erano state delle modifiche alla legge, cosa assolutamente falsa, dicendo che ci sono state queste modifiche ascoltando le audizioni, che la legge è stata modificata, il che non è vero, perché queste sono altre voci che ci hanno confermato che questa è solo una cosa inventata da questo assessore che è uscito a parlarci. Insomma, l'atteggiamento è stato veramente inaccettabile, perché lui è venuto là a fare, diciamo, a fare il suo comizio, che stava facendo bene nella regione davanti alle telecamere, e non ascoltando assolutamente quello che noi chiedevamo. Ora noi abbiamo chiesto che comunque almeno si impegnasse questo assessore a fissare un appuntamento tra appunto il Movimento delle Donne, l'Assemblea Permanente e la Polverini. Lui ci ha detto sì, che lo farà, però chiaramente le parole si sa come stanno a zero, ed evidentemente su questa cosa ce ne potremmo anche, insomma, non crederci, non è intelligente. Ora, quello che invece abbiamo deciso collettivamente è quello che vogliamo denunciare oggi, al di là della questione della Tarsia, è nel dire che questa regione evidentemente ha un problema serio, cioè che non ascolta nessun tipo di movimento, cioè non è permeabile a nessun tipo di rivendicazione a partire da quelle delle donne, ma non solo, sulla precarietà, vediamo sul reddito, gente che fa 10 giorni sul tetto per avere un tavolo, cioè cose assurde, per cui noi pensiamo, cioè al di là di questa presa per il culo, che questo è sceso e ci ha detto e ha fatto il comizio, ovviamente non è stato una vera e propria, ma non si è aperto nessun tipo di tavolo. Allora, siccome questa è la situazione, quello che si pensava era di immaginarci un appuntamento pubblico in cui si portavano con tutte, diciamo, le lotte sociali che in questo periodo in cui è stata in carica la regione, appunto è stata in carica il governo Polverini, non sono state ascoltate dalla regione, non sono state non dico che chissà che cosa bisogna fare, ma neanche concessi, diciamo, tavoli eccetera, di mettersi insieme e provare a immaginare una giornata di contestazione in questi termini, cioè quindi della democraticità di quest'organo e di quanto ovviamente non sia rappresentativo evidentemente dei cittadini e delle cittadine. La seconda cosa, e chiudo, scusate la lunghezza, è che quello che noi ci siamo detti qua sotto è che ovunque, noi queste firme le vogliamo consegnare a Polverini, chiaramente, no? Quindi ovunque, la prima iniziativa pubblica che la Polverini fa, noi saremo là. Saremo là, la seguiremo, insomma, faremo un po' di stalking, come si può dire, senza così per utilizzare un eufemismo, perché evidentemente questa non si fa trovare, allora saremo noi a trovarla. Queste sono un po' le cose riuscite, e lunedì sarà la riunione della Casa Internazionale, chiaramente in cui invitiamo tutte a partecipare e a discutere insieme. E va bene, ti ringraziamo, e se ci sono comunque altri sviluppi ci sentiremo in giornata. Ciao. Va bene. Ok, ciao ciao.

guy comes out of nowhere, kicks our asses. This would be the guy that looks like Batman. I didn't say he looked like Batman. You did, Trey. You said the guy looked like Batman. I said like a mask and stuff. And a cape? Yeah, like Batman. I never said Batman! :39 minuti primi, giovedì 14 aprile del 2011, 87.900 la modulazione di frequenza. Questa è Radio Onda Rossa, dal 1977 senza padrini politici, senza padroni economici. La radio è di chi se la sente e chi se la sente può contribuire a farla vivere, ad esempio con una sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 61804001 da intestare a Radio Onda Rossa, via De Volsci 56 00185 Roma, oppure consultando il sito della radio www.ondarossa.info, la voce sostieni, troverà le altre modalità. Tra poco meno di 20 minuti il consueto appuntamento del cinema con Visionari ogni giovedì dalle 14 alle 15. Per saperne di più la scaletta la trovate sul sito della radio, alla voce trasmissioni, Visionari, gli ospiti di questa puntata, le uscite di venerdì 15 aprile in sala e poi i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e provincia, il link per riascoltare la puntata precedente e come anche per leggere interviste e recensioni. A tra poco, e visto che abbiamo oggi una marea di ospiti e c'è un po' di tempo a disposizione, per quanto riguarda intanto gli appuntamenti della settimana con il cinema in giro per l'Italia, si potrebbe già cominciare a sentire qualcuno. Bene, con Giulietta Fara per parlare della tredicesima edizione del Future Film Festival a Bologna dal 20 al 23 aprile, ben ritrovata. Ciao. Ci sei, eccoci. Allora, raccontaci un po' di questa edizione. Ah, l'edizione parte tra pochissimo, il 20 aprile, e per il primo anno ci siamo spostati in primavera, quindi per noi è una novità interessante, anche se sta tornando il freddo, quindi probabilmente ci avviciniamo alle temperature di gennaio, speriamo di no. E, 20-23 aprile, quindi novità sulle date, le sedi sono più o meno le stesse degli altri anni, sono Teatro Duse che si riconferma la sede delle proiezioni e invece Sala Borsa che utilizziamo per il primo anno, che è proprio al centro, insomma, in Piazza Maggiore. Il concorso Platinum Grand Prize si riconferma come un po' il cuore centrale della manifestazione, con 8 lungometraggi in concorso. Il tema così un po' trasversale dei film che presentiamo quest'anno, sia in concorso sia fuori concorso, si può dire che è un po' la figura dell'alieno. Ci sono anche diversi supereroi o antieroi o eroi comici, e la giornata del 3D si riconferma come un appuntamento importante. Dal 2009 abbiamo appunto dedicato un appuntamento fisso all'interno del festival, il 3D Day, che ospita convegni relativi al 3D stereoscopico, ma anche una serie di proiezioni. Quest'anno la novità è che si parlerà del 3D all'italiana, nel senso che nel 2009 chiaramente abbiamo parlato del fenomeno soprattutto americano, sì. Nel 2010 abbiamo ribadito come il fenomeno americano / neozelandese, con la Veta che aveva appunto realizzato il 3D per Avatar, era comunque, diciamo, ancora una novità, mentre per il 2011 diamo uno sguardo a che cosa succede nel nostro paese, non soltanto a livello di produzione di lungometraggi che si stanno per fare, ma anche di corti, videoclip, sperimentazioni. Oh, per quanto riguarda gli ospiti, Il festival dedica un omaggio particolare a un ospite a cui teniamo molto, che è Luc Besson, che sarà al festival nella giornata del 21 aprile, dedicata a lui. Si inizia dalla mattina con la proiezione per la stampa e poi la sera per il pubblico dell'ultimo, il terzo capitolo di Arto del Popolo dei Minimei, ma con l'occasione, visto che appunto sarà presente Besson nella giornata del 21, abbiamo deciso di dedicargli una sorta di piccolo omaggio con la proiezione di Quinto Elemento e Adèle Blanc-Seck, i film suoi un po' più vicini, diciamo, alle tematiche del Future Film Festival, e una maratona Minimei in cui riproponiamo anche gli altri due capitoli appunto della saga. E alle ore 16 del 21 in Sala Borsa ci sarà invece l'incontro col regista, con cui parleremo anche di stereoscopia, perché i suoi progetti anche per il 3D sono molto interessanti. Oh, per quanto riguarda il programma, ci dai il sito internet di riferimento per saperne, sì, di più? Sì, il sito è www.futurefilmfestival.org, sono aperte le biglietterie, purtroppo sono chiusi gli accrediti, ci sono diversi eventi gratuiti e incontri aperti, diciamo, anche al pubblico. Bene. Segnalo anche il concorso Corti, che ha un premio per il pubblico interessante, nel senso che il gruppo AMA Future Film Short ha al suo interno anche un premio del pubblico, in cui appunto tutti gli spettatori possono vedere e votare tramite il classico fogliettino i corti preferiti, e il primo e il secondo appunto verranno premiati nel corso della cerimonia di chiusura che si terrà il 23 di aprile. Bene Giulietta, in bocca al lupo e a risentirci per le prossime cose. Grazie mille, ciao. Un abbraccio, ciao. Oh, Giulietta Fara, direttrice e co-direttrice della tredicesima edizione del Future Film Festival a Bologna dal 20 al 23 aprile. Oh, è con noi Maria Pia Inglese per la rassegna Beyond a Roma, dal 19 al 21 aprile si parla di cinema queer, giusto? Sì, infatti tu dicevi il mio nome, però in realtà vorrei far conoscere l'associazione che è Queer in Action, che è attiva dal 2009 a Roma, appunto organizzando rassegne a tematica queer. Tra l'altro, il tema... Sì. Già erano stati i nostri ospiti in altre rassegne. Sì, ci tenevo a ribadire il nome certo, dell'associazione. Certo. E questa volta appunto Queer in Action propone una rassegna dal titolo Beyond, che appunto significa oltre, e nasce proprio dall'idea del vivere la sessualità e le relazioni oltre e anche contro un'idea, diciamo così, immobile, statica delle stesse, e quindi contro, diciamo, un'idea, un concetto di naturalità dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere, riaffermando pertanto anche che essi sono in parte costruiti socialmente. Sì. E in questo senso anche i personaggi dei film appaiono, come dire, confusi, disorientati nella loro ricerca dell'eros, nella loro ricerca erotica, che pertanto diventa, in molti di questi film sembra diventare proprio una ricerca di identità. Esatto. Come se in realtà non ci fosse un reale oggetto del desiderio che potesse appagarli del tutto, sia esso uomo o donna, maschio o femmina. Quindi appare in realtà tutto molto, molto precario, ma è, come dire, un modo per dire che i rapporti, le relazioni sono da costruire e decostruire continuamente, e che tutto ciò che invece viene poi spesso etichettato sotto nomi vari, come appunto eterosessuale, omosessuale, eccetera, eccetera, è assolutamente un'etichetta che cambia a seconda delle società e delle culture. Mm-hmm. E, quindi niente, questa rassegna si terrà al Chino dal 19 al 21 aprile. I film saranno, il Chino si trova al Pigneto, via Perugia 34, e i film sono tutti quanti in lingua originale, sottotitolati in italiano, e sono distribuiti dalla casa di distribuzione Atlantide, che è appunto una casa di distribuzione che si occupa da un po' di tempo proprio di distribuire in Italia tutti quei film che per un motivo o per un altro non sono mai stati distribuiti, spesso per motivi di censura, appunto. Sì, anche in quel caso abbiamo parlato con loro, sì, in occasione di proprio del lancio di questo nuovo strumento. Ah, esatto, sì, infatti. Infatti poi loro hanno anche una linea, diciamo, di prodotti, di film, che si chiama Queer Frame, che è facilmente accessibile anche al pubblico, diciamo, da casa, perché c'è un portale, proprio che è una linea di prodotti di questa casa di produzione. Quindi noi ringraziamo molto, perché insomma, attraverso loro abbiamo potuto realizzare questa rassegna, e anche attraverso appunto i soci del Chino. Senti Maria Pia, dal 19 al 21 aprile quante opere proporrete? Allora, i film in tutto sono 7, sì. Di cui c'è una replica il 21 aprile, con la replica del primo film che viene dato il 19. Il 19 facciamo 2 proiezioni, una alle 21 e l'altra alle 23, invece gli altri giorni c'è anche una proiezione alle 19. Per quanto riguarda comunque tutto il programma, le schede dei film e i trailer, su www.queerinaction.org si possono trovare tutte le informazioni. Per l'ingresso è necessaria la tessera ARCI, perché appunto è un'associazione con tesserati ARCI, e l'ingresso è di 4 euro, però c'è in omaggio un bicchiere di vino, quindi accessibile, diciamo, anche perché insomma. Poi, accessibile, insomma. Esatto, sì, abbastanza accessibile. Poi loro comunque tendono a selezionare vini biologici, quindi diciamo che uniamo un po' l'utile al dilettevole. E bene, vorrei, dimmi. Se me lo permetti, anche ringraziare questo artista che ci ha concesso questa opera fotografica che abbiamo utilizzato per la promozione della rassegna, che si chiama Roberto Kusterle, che è un fotografo, un artista direi, di Gorizia, e ci ha gentilmente concesso questa foto che a nostro avviso è molto rispondente al tema della rassegna. e si può anche questa vedere ovviamente nel sito, sul oppure sito, sulle brochure che stiamo distribuendo in giro per la capitale. Maria Pia, a questo punto tienici aggiornati, chiaramente aggiornate per quanto riguarda le prossime iniziative, in bocca al lupo per questa, certo, rassegna. Certo, grazie a te, grazie a tutti, buona giornata, ciao. Maria Pia Inglese, per quanto riguarda la rassegna Beyond al, al Chino qui a Roma dal 19 al 21 aprile, una rassegna tematica queer. Oh, è con noi Bruno Bigoni, regista del documentario Il colore del vento, che da domani sarà girerà un po' l'Italia, giusto Bruno? Sì, esce oggi a Roma, al Cinema Cazar, e da domani è il tournée. Bene, oggi ci sarà anche la presentazione con la tua presenza? Sì, stasera insieme a Mario Sesti c'è la presentazione alla proiezione delle 9. Alla proiezione delle 21, benissimo. Sì. Allora, il tuo documentario era stato presentato anche qualche mese fa in un festival importante, se non sbaglio. Sì, al Festival di Roma. Esatto. Raccontaci un po', per chi ci ascolta e vuole saperne di più, di cosa si tratta. Allora, Il colore del vento è un viaggio nel Mar Mediterraneo ispirato al disco di Fabrizio De André che si chiama Casa de Ma, lo stesso disco appunto che in qualche modo...